16. Donna del cielo ebbe una figlia, che venne fecondata dal vento occidentale. Ancora nel ventre, i due nipoti di Donna del cielo litigarono sul modo di nascere. Gemello sinistro non voleva uscire nel modo normale. Si fece strada fino a spuntare dall'ascella della madre e così facendo la uccise. Molly guardò il volto di Peter nello specchio e fece scorrere il rasoio sulla cute. Il ragazzo sedeva a gambe incrociate, immobile. La sorellina Anne avvinchiata una gamba. «I gemelli seppellirono la madre», proseguì Molly, «che divenne madre mais, da cui hanno origine zucca, fagiolo e pannocchia, le tre sorelle che sostengono la vita. Dal cuore nacque il tabacco, che si usa per mandare messaggi al mondo del cielo». Finì di rasare i lati del cranio. Rimase un lungo ciuffo di capelli neri tenuti insieme da un nastro rosso. Lo specchio rimandava l'immagine di un guerriero giovane, bello e forte, le carni ben impastate, le ossa ben disposte. Gli occhi della nazione potevano compiacersi. Gli spiriti degli antenati lo avrebbero protetto. I gemelli continuarono a sfidarsi. Destro creò le belle colline, i laghi, i fiori e le creature gentili. Sinistro le gole scoscese e le rapide, le spine e i predatori. Destro era sincero, ragionevole, di buon cuore. Sinistro mentiva, amava combattere, aveva un carattere ribelle e percorreva sentieri intricati. Poiché Destro ha creato gli uomini, è conosciuto come il nostro creatore e il padrone della vita. Non dimenticare mai di onorarlo con le preghiere. Recita i salmi ogni sera. Tacque e contemplò il ragazzo. Sir William sarebbe stato contento. Suo figlio andava a Oswego al suo primo concilio. I capelli acconciati nel modo tradizionale, cintura di wampum ad attestare il lignaggio. Un vero Mohawk, avrebbero detto tutti. Educato anche nelle lingue e nella scienza dei bianchi. Il vero erede di Warragiyagay. Tuo padre sarebbe fiero di te, come lo sono io. Il ragazzo si rimirava nello specchio. Girò la testa, alzò il mento, abbassò la fronte per valutare l'effetto. «Manca qualcosa», disse. Si alzò, scostando la bambina con una carezza e prese il fucile. Si girò verso lo specchio più grande appeso alla parete. Con l'arma al piede l'immagine era perfetta. Il ragazzo sorrise a se stesso. «È un regalo di zio Joseph». Passò una mano sulla canna liscia e scura. «Bellissimo». «Con quello caccerai i cervi, Peter?» chiese la sorellina. «Sì, e difenderò anche la nostra valle». Il ragazzo sembrò riflettere sulle parole appena pronunciate. «Chi ha inventato il fucile, madre?» domandò. «Gemello destro o gemello sinistro?» «Chi è stato, mamma? Chi è stato?» si inserì Anne, con voce squillante. Molly comparve alle spalle del figlio. Pose una mano sul capo della piccola. «Nulla di quel che ha fatto l'uno può esistere senza quel che ha fatto l'altro. Non puoi camminare al sole senza mandare ombra. E anche l'ombra serve quando il sole è troppo forte». «Quindi è stato sinistro?» insistette Peter. «Figlio ostinato!» sorrise Molly. «Lo sai benissimo che è stata l'abilità degli uomini bianchi a fare il fucile, i violini, i microscopi e le altre cose che ti piacciono». Aggrottò la fronte. «Ma non so se nella testa del primo armaiolo il fucile ce l'abbia messo Dio o il diavolo». «Il diavolo, padrona! Il diavolo di sicuro!» Giuba era entrata nella stanza, esile e silenziosa. Si fermò a guardare il ragazzo che prendeva in braccio Anne. La bambina giocherellò con il ciuffo che ornava il cranio. Non sembrava interessata a nient'altro. La serva nera cercò con gli occhi l'assenso di Molly, quindi impose le mani sulla testa del giovane e mormorò frasi di benedizione in una lingua sconosciuta. Quando ebbe finito, tornò a guardare la matrona del clan del lupo. «Porta il regalo», le ordinò Molly. «Un regalo?» disse Peter, mentre si liberava dall'abbraccio di Anne. «Il fucile che ti ha donato tuo zio Joseph non è l'unica cosa che ti può servire». Quando Giuba tornò con la scatola, Molly ne strasse una custodia di violino. Il ragazzo sobbalzò. Un violino nuovo. Avrebbe gettato le braccia al collo della madre, ma non era più un bambino. Prese lo strumento con delicatezza e ne saggiò il peso, pizzicò le corde, annusò l'odore del legno lucido. «La musica ti terrà compagnia durante il viaggio», disse la madre. «Imparerai nuove canzoni e molte altre cose». «Suona quella che mi piace, Peter», lo supplicò Anne. «Dai, suonala!» Il fratello non si fece pregare. Mosse veloce l'archetto e la bimba iniziò a dondolare al tempo del reel. Molly guardava la scena. celando la preoccupazione dietro un sorriso. Molti pensieri affollavano i suoi giorni e i sogni le notti. William aveva dato a Peter l'educazione e la conoscenza, ma non aveva fatto in tempo a iniziarlo la guerra. Adesso toccava a Joseph completare l'opera, fare di lui un guerriero. Il momento sarebbe venuto presto. Orgoglio e timore si sfidarono nell'animo della donna, promettendosi eterna battaglia. Anche nel sogno Peter suonava il violino, mentre William diceva qualcosa nella lingua dei padri. Se solo fosse riuscita a capire quelle parole, avrebbe salutato il ragazzo con più serenità. Una piccola torma di bambini invase la stanza tra grida eccitate. Peter li accolse a braccia aperte e si lasciò gettare a terra. Molly guardò i suoi figli fare la lotta e rotolarsi sul pavimento, ridere e scherzare. Il tempo dei giochi stava per finire, e non soltanto per Peter. Un'ombra incombeva sulla valle, ne lambiva i margini. Il compito che toccava a Molly non sarebbe stato facile. Custodire la terra degli avi, proteggere i figli della nazione come fossero tutti suoi.